America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Good evening everyone. The law of gravity hit Wall Street today and financial markets around the world for that matter. Avete sentito la voce allarmata del newscaster? Era il lunedì 19 ottobre del 1987 quando ci fu il grande crollo di Wall Street. La borsa in un sol giorno perse il 20%. C'erano delle notizie destabilizzanti dal punto di vista geopolitico, l'Iran che aveva attaccato delle navi americane, ma soprattutto quello che è successo quel giorno è che i cosiddetti ordini automatici di acquisto e di vendita, ordini computerizzati, sono impazziti, perché si sono superate determinate soglie in cui gli ordini automatici partivano e si è creato un effetto a spirale che ha poi provocato questo crollo. Era il 1987. Oggi la situazione, invece di essere migliorata, invece di essere più tranquilli, invece di aver imparato come possiamo dominare da esseri umani il mezzo elettronico, la realtà è che siamo ancora più schiavi del mezzo elettronico nella gestione di ordini di acquisti e di vendite, al punto tale che è in corso una vera e propria manipolazione dei mercati, con tanto di inchiesta dell'FBI che ormai da un anno sta seguendo questa pista, e con l'uscita di un nuovo libro di Michael Lewis, autore per esempio di Liar's Poker. Il nuovo libro si chiama Flash Boys ed è proprio sui problemi alla trasparenza del mercato che derivano dalle attività di questi traders. Means they're able to identify your desire to buy shares in Microsoft and buy them in front of you and sell them back to you at a higher price. Michael Lewis, eccolo Michael Lewis, intervistato da Steve Cross su 60 Minutes. Devo dire, il suo libro, appunto, Flash Boys, è diventato non solo un bestseller, ma ne stanno parlando un po' tutti in questi giorni, perché mette a fuoco proprio quello che è l'oggetto dell'inchiesta dell'FBI, cioè il fatto che ci siano questi computer super potenti che operano con delle fibre ottiche straordinariamente veloci e riescono a intercettare l'ordine di un investitore che decide di vendere o di acquistare, che passa attraverso un exchange particolare prima di arrivare a destinazione, per esempio prima di arrivare al NYSE. Che succede? Intercettando questo ordine, gli basta una frazione di secondo in meno per poter giocare ad anticipo e quindi eseguire quello stesso ordine di acquisto o di vendita nella direzione contraria e giocare sulla differenza di prezzo e dunque guadagnarci. E le società di trading di Wall Street hanno speso miliardi di dollari in cavi di fibra ottica a computer super potenti per assicurarsi questo vantaggio. Dunque dietro c'è un investimento molto importante, e dunque qualcuno dice: ma noi operiamo in trasparenza sul mercato, abbiamo dei computer, quelli intercettano determinate tendenze e noi sulla base di questa tendenza in modo elettronico operiamo. Altri dicono: no, questo è insider trading, e spiare e carpire un'informazione riservata di un altro investitore e agire sulla base di quell'insider trading sicuro al 100% per poter giocare su questa differenza di prezzo. Voi immaginate operazioni di questo genere condotte nel corso di una giornata per miliardi e miliardi di dollari, anche se la differenza è minima, consente di fare dei profitti straordinari. Di nuovo Michael Lewis, sentiamolo. It's bigger than a scam because it's not like a trivial sideshow in the market. It is the market. Every transaction that happens in the market. È una truffa, dice, anzi è peggio di una truffa, perché non è una cosa marginale sui mercati, è il mercato. Ogni transazione avviene attraverso un'intermediazione che va a unico beneficio dello speculatore che la compie. Il mercato dovrebbe essere un campo da gioco dove tutti seguono le stesse regole, ma questi speculatori hanno trovato il modo di piegare la tecnologia a loro favore in modo che il sistema sia corrotto. All'origine, la cosa forse più scioccante di questa situazione, dice Lewis, è che è cominciata dopo la crisi finanziaria, dopo il crollo del 2007-2009. Quindi non si tratta di un vecchio problema, ma di una novità. E qui si apre naturalmente il dibattito sulle regole del mercato, sul ruolo dei regolatori, delle commissioni finanze bancarie alla Camera e al Senato, che hanno cercato di imbrigliare gli operatori finanziari, ma che evidentemente nel momento in cui riescono a isolare e a fermare un aspetto distorsivo sulle attività di mercato, ecco che subito se ne presenta un altro. Vi dicevo che l'FBI sta investigando su queste attività già da un anno, l'accusa di potenziale manipolazione del mercato. Ci sono delle attività parallele, tra l'altro, ad esempio la creazione di ondate di ordine che vengono poi subito cancellate, dunque si genera una falsa impressione sull'andamento dei prezzi sui titoli a seconda dell'interesse o meno di investitori che poi non esistono. Un'altra accusa riguarda la possibilità di occultare attraverso il trading, l'interscambio ad alta frequenza, operazioni condotte grazie a informazioni illegali, dunque insider trading più tradizionale. L'operazione dell'FBI, lanciata in collaborazione con la SEC, è solo l'ultima inchiesta sul settore che sta venendo alla luce. Ci sono indagini in corso anche del procuratore generale dello Stato di New York, Harry Scheiderman, e dalla CFTC. Stanno esaminando legami troppo stretti fra le società di trading ad alta velocità e le borse, perché sembra che poi le borse partecipino, perché le borse sono depositarie di certe informazioni. E dunque, come dire, il sospetto è che alcuni degli exchanges di intermediazione operano in sintonia con questi gestori di computer super veloci per giocare sulle commissioni. It didn't feel right that people who are investing on behalf of pension funds and retirement funds are getting bait and switched every single day in the market. Brad Kutsuyama è uno degli ex trader, lavorava alla Royal Bank of Canada, che ha denunciato questo abuso di mercato. Dice: non è giusto che chi investe per fondi pensioni o investitori istituzionali venga aggirato ogni giorno sul mercato. Proprio Kutsuyama ieri si è confrontato con uno degli operatori su CNBC. Sentiamo questo loro confronto. Do you believe it or not? I believe the markets are rigged. Okay, so there you go. And I also think that you're a part of... Ecco, il confronto è con William O'Brien, presidente di Bats Global Markets, un altro exchange accusato di operare high frequency trading, queste attività di front running, cioè di arrivare prima degli altri, davanti agli altri, di fronte agli altri, per poter approfittare di questa informazione. O'Brien dice: ma tu sostieni che i mercati siano corrotti? Kutsuyama risponde: sì, credo che lo siano e credo che anche tu sia parte del problema. Ne vogliamo parlare? O'Brien: parliamone. Il dibattito si è appena aperto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di avidità questa volta in funzione dell'elettronica, dell'utilizzo dell'informazione, dei cavi super veloci, di computer super potenti, e dunque la passione eccessiva del denaro porta inevitabilmente a dei problemi. Vi propongo di Liza Minnelli, tanto per restare in tema da un vecchio classico cabaret, Money, Money, Money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!